Sono stupido a volte a credere che tutto abbia un senso e che tu muova gli astri, anche quando le storie degli altri sembrano più comode. Sono stupido se poi ripenso a quanto non sapevo dei tuoi mostri che muovevano le giostre, dei libri che avevi lasciato a metà. Ma tu fai di me tutto ciò che vuoi, che poi al resto penso io. Prendi a schiaffi il volto di chi davanti hai, che poi ce la vediamo noi. Capisco di quanto la vita sembri stupida alle volte, quando invece è piena di storte. Scherza con chi non deve e poi cerca di riparare. Mi stupisco di quanto noi due siamo stati stupidi più volte, senza alternative. Che di strade ce ne sono e come ogni giorno una prova. Ma tu fai di me ciò che vuoi, che poi al resto penso io. Prendi a schiaffi il volto di chi davanti hai, che poi ce la vediamo noi. Fanno più paura, sai. Li affronto giorno dopo giorno, poi mai, poi mai. Cura.